Sembra che Otto Weininger si sia suicidato per scommessa il 4 ottobre del 1903. Era appena stato pubblicato quel suo libro, Sesso e carattere, dove a pagina 265, almeno della prima edizione italiana del 1912, dove a pagina 265 si poteva leggere che nessun uomo ha mai trovato che i genitali femminili siano di speciale bellezza, anzi, ognuno li trovò ripugnanti. Ora, visto e considerato che nel dialetto sardo, con il termine cozza, si designa per l'appunto i genitali femminili, la tesi di Weininger potrebbe costituire una bozza di spiegazione del fatto che nel parlato italiano oggi con lo stesso termine si designi una ragazza brutta e poco appetita dalla gran massa dei maschietti, diciamo così. Sarà. Se la cosa fosse così generalizzata, tuttavia, non si capirebbe più molto bene il perché della sovrappopolazione mondiale. Mettendo assieme qualche lettura di Dionisio di Alicarnasso, di Ovidio e di Plutarco, possiamo venire a sapere qualcosa dei Lupercalia, feste più o meno purificatrici nei confronti di femmine e pastori, nonché buona occasione, diciamo, per ribadire l'invalicabilità dei confini della città di Roma. Il Lupercal, probabilmente, a quanto sembra, era una grotta posta sotto l'angolo occidentale del Palatino. Per qualcuno è addirittura la leggendaria grotta in cui la lupa allattò Romolo e Remo, nei cui pressi ogni anno il 15 febbraio si celebrava la festa, in cui prima si cominciava con il sacrificio di una o più capre, poi dalle loro pelli si ricavava strisce che venivano infine consegnate alle abili mani di giovanetti seminudi perché se ne servissero per colpire chi capitava loro a tiro, specialmente se belle fanciulle. Più o meno un rito di fertilità dai contenuti simbolici neppur tanto occultati. Storici più fantasiosi dicono che in occasione dei Lupercalia veniva anche soddisfatta la passione dei romani per le lotterie. Sembra che venissero messi in due scatole i nomi di maschietti e di fanciulle che, una volta estratti ed associati, avrebbero poi fatto coppia fissa per un anno intero fino alla prossima estrazione. Questa casualità dell'accoppiamento o questa soluzione stocastica della vita sociale sarebbe stata riproposta più tardi, a cristianesimo trionfato, secondo un criterio analogico. In una scatola ci si metteva sì i nomi di maschietti e di femminucce, ma in un'altra ci si metteva nomi di santi. Ai fortunati estratti toccava imitare la vita del santo che capitava loro. Le cose cambiano, si sa, non sempre per il meglio. Anticipando di un giorno, abbiamo San Valentino. Secondo la consolidata usanza della Chiesa Cattolica di provare a negare il suo ineluttabile legame con il passato pagano, in cerca di un'originalità salvifica che la storia recisamente smentisce, qualcuno fa nascere il santo nel 175, lo fa morire il 14 febbraio per l'appunto del 273, a ben 98 anni, ma i più avveduti lo lasciano perdere nella notte dei tempi. Sul perché sia diventato il santo degli innamorati circolano almeno due modelli esplicativi. Il primo modello prende le mosse da una ferrea opinione dell'imperatore Claudio, il quale sosteneva che gli uomini sposati non potessero essere bravi soldati romani e in pratica poco darwinianamente, sembra che dissuadesse in tutti i modi dal matrimonio. Valentino invece, strafregandosene e acquisendo così meriti imperituri fra i banchi dell'opposizione, continuava ad officiare unendo giovani in matrimonio. Prima. Il secondo modello esplicativo si basa invece sulla certezza che sia stato lui, Valentino, il primo a celebrare un matrimonio fra un legionario pagano e una giovane cristiana, sensale trionfante fra le opposte fazioni, scardinatore primo del chiavistello storico dei ghetti costituiti, iniziatore di una nuova stirpe nel nome dell'amore. Valentino meriterebbe allora il posto che ha nel nostro calendario. Il 14 febbraio scorso, nelle pagine del Corriere della Sera, sette inserzioni pubblicitarie si riferivano esplicitamente a San Valentino, mentre almeno altre tre si affidavano a comunicazioni chiaramente in tema, anche senza nominarlo. Fra queste ultime, una era della Coca-Cola, una prometteva uno sconto sulla polizza assicurativa dell'automobile ed un'altra suggeriva che il modo migliore di dichiarare al partner il proprio amore consistesse nel fargli trovare di fronte 16 scaglie di parmigiano reggiano. Una ricetta che a me, che detesto ogni tipo di latticino, mi avrebbe condotto dritto e filato ad una vita di astinenza tale da fare invidia ad un monaco stilita. Vabbè, ma fra le sette esplicite, chiamiamole così, c'era il classico bacio perugina, la boccetta di charme, la perla, presumibilmente un profumo, il 50% di sconto al partner nell'abbonamento per due ad un club, diciamo così, di benessere, due marchi automobilistici, la Vespa e un gioco. Queste ultime quattro inducono a qualche riflessione. A tutta pagina la Vespa mostra il proprio prodotto e una bimba coniglietta esibente indubbi attributi sessuali primari e secondari, mentre una scritta ricorda la data e un'altra dice perentoriamente «seducetela». La Renault che produca automobili lo lascia alla nostra cultura. C'entra nel mezzo della pagina un inequivocabile preservativo a forma del suo logo ed augura un buon San Valentino qualificandosi come la marca più premiata in sicurezza. Che l'altro fosse un gioco, dizionario alla mano l'ho dedotto dal nome Play, ma che si tratti davvero di un gioco non ne sono poi così tanto sicuro. E l'immagine però, parlerebbe anche chiaro, è un anello, anche perché risulta incastonato in un cofanetto aperto. La scritta in grande assicura che a San Valentino niente le farà più piacere, con il che si chiarisce, grazie al pronome, che almeno che non è il santo a goderne, ma la scritta più in piccolo circa natura, funzioni e destinazioni topologiche dell'anello problematizza non poco. Dice che Play Vibration è l'anello stimolante per lui e per lei per 20 minuti di vibrante piacere e che lo possiamo trovare nelle farmacie, nei supermercati e nelle tabaccherie, non dagli orefici, insomma. Inutile far notare che complessivamente questa pubblicità lascia più domande aperte di quelle cui risponde. Per esempio, ma perché se niente farà più piacere a lei, l'anello è sia per lui che per lei? E perché questo vibrante piacere dura soltanto 20 minuti e da dove salta fuori, da quando, questa novità linguistica di un piacere che diventa vibrante? La pubblicità della Skoda invece è narrativamente articolata in tre puntate, dove in ciascuna è posta una condizione. La prima dice: se la tua trottolina ti ha rimbalzato, La seconda, se neanche la cozza delle medie ti chiama più. La terza, svoltata altra pagina ancora, la terza, se per la cena di San Valentino perfino il tuo Labrador ti ha dato buca, ricorda, nessuno ti ama come un concessionario Skoda. Allora, le cose cambiano. Ho l'impressione che con l'amore il povero San Valentino non c'entri più un granché. Per certi versi, mi sembra che, ecco, come nel caso della cozza, nel significato si sia scivolati verso il suo opposto. Seduzione e sesso meccanizzato, calcolo e maschilità avviliscono la relazione umana fino a ridurla a una variabile del commercio. L'economia ci guida d'autorità ai nuovi Lupercalia e a noi per manifestare la nostra protesta forse non rimane che correre ad abbracciare forte tutti i concessionari Skoda che riusciamo a individuare.